Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. L'avrete già sentito più volte questo spot trasmesso da Radio 24 e siccome molti mi stanno telefonando e mi stanno chiedendo cos'è questa cosa del treno, ve lo spiego nello spazio di Melog, rubando un po' di spazio a Melog e regalandolo al treno va. Io dal 2 novembre, voi mi ascolterete dalle 11 alle 12, sarò in un treno. Ho deciso che attraverserò il mondo e gli universi interiori delle persone che incontrerò stando in treno. Immaginatemi relegato in un treno, eterno viaggiatore. Salirò e scenderò dalle stazioni, parlerò con le persone, mi guarderò dal finestrino e cercherò di raccontarvi per quanto possibile il mondo visto da un treno. Quello che vorrei questa mattina, visto che avete chiesto di cosa si trattasse, ve l'ho spiegato, vorrei subito un contributo, siccome comincio il 2 novembre, voglio incontrare persone che vengano con me in treno, voglio viaggiatori loquaci, voglio persone che accettino di entrare in questo non tempo e non luogo che è il viaggio in treno per raccontarsi. È una grande occasione per raccontarsi, in treno ci si racconta molto volentieri. Ci si racconta in maniera diretta, ci si racconta in maniera indiretta. Ci si racconta quando si familiarizza con il proprio vicino di scompartimento. E intanto già potete chiamare all'800 24 0024 e cominciate a raccontarmi alcune vostre storie di treno. Non necessariamente io quando viaggerò in treno vorrò storie di treno, ma il treno sarà il suscitatore di tutte le storie. Dicevo, si familiarizza con il proprio vicino di sedile. Gli scompartimenti non sono più come una volta, non si chiude la tendina e non ci si chiude dentro, è tutto aperto, è tutto a piena vista, si cammina di vagone in vagone, si va verso il vagone ristorante o il vagone bar, si inciampa nei piedi delle persone, che c'è sempre il viaggiatore esterno che tiene un piede nel corridoio, dice scusate e inciampa, c'è sempre chi infila la valigia in mezzo ai due sedili e la valigia come il treno, soprattutto quello che va molto veloce, è con le rotelle esce perché i trolley hanno una vita autonoma e quindi molte volte si inciampa nella valigia della persona. Ma queste sono tutte perfette, ottime occasioni per fare conoscenze dirette. Le conoscenze indirette le facciamo attraverso quello che noi regaliamo di noi stessi alle altre persone telefonando. Il treno è un grande palcoscenico in cui ognuno rappresenta se stesso. Si rappresenta al telefono il grande uomo d'affari che fa la telefonata e tratta male la segretaria, la collaboratrice, la sottoposta, che in realtà potrebbe anche non esistere. Ma è bello sapere quando si vedono questi grandi affari, improvvisamente si immagina che il nostro sia un paese che va a gonfie vele, perché tutti sorridono, tutti parlano di business, tutti danno ordini, direttive, danno importanti appuntamenti, indicano riunioni, richiedono planning, richiedono report, insomma il lavoro serve sul treno, nessuno si preoccupa del fatto che magari molte volte qualche particolare sulla propria azienda, sui propri giri, sui propri clienti, su quello che si fa e non si fa, sui numeri di telefono che si dicono ad alta voce potrebbe essere lasciato in maniera incauta a disposizione degli altri viaggiatori, ma questo molto non interessa. Poi naturalmente in treno si entra in contatto con le storie personali, le storie private, lunghissime telefonate. Io mi chiedo tante volte in treno come mai le persone stiano ore e ore al telefono in tutta la tratta Roma-Milano, che sono tre ore qualcosa nella media ipotesi. Ho visto persone telefonare dall'inizio alla fine interrompendosi soltanto dove ci sono le gallerie nell'Appennino, che ogni tanto cade la comunicazione. E direi, ma chi gli paga il telefono a questi qua? Sarà un telefono aziendale, o perlomeno varrà la pena di aver fatto questo lungo viaggio a contatto con un'altra persona, raccontando a un'amica le proprie delusioni amorose, raccontando quanto gli uomini non capiscono, sono immaturi, devono crescere, o parlando con la persona con cui si ha un legame amoroso e naturalmente cercando di tenere sempre stretto questo legame, o di riallacciare questo legame, o di chiedere continuamente alla persona cosa si fa e dare immediata ipotesi e cronaca di quello che si stia facendo. 800 24 0024, vorrei che questa mattina qualcuno cominciasse a chiamarmi e cominciasse a dare l'idea di quello che accade nelle vostre teste quando viaggiate in treno. Sì, perché è un programma che sto improvvisando, sto immaginando. Finché non parto in treno non vi posso dire che succederà nel treno, e forse magari voi questa mattina potrete già cominciare a darmi qualche suggerimento, qualche idea, a raccontarmi del vostro viaggio in treno. 800 24 0024. Il luogo di fuga dal mondo che preferisco è senz'altro il treno. Non mi capita di prenderlo tutti i giorni, però quando questo avviene per me è quasi una festa. Posso stare 3 ore, 4 ore anche a non pensare a nulla di quello che normalmente mi appedia. Posso leggere finalmente in pace, posso anche vedere un film se ho con me il computer portatile, ma soprattutto posso stare da solo a guardare fuori dal finestrino e vagare con la mente dove mi pare. È per questo che poi non ho alcun desiderio di prendere mezzi più veloci come l'aereo per i miei spostamenti di lavoro. Vorrei istituire una sorta di servizio metropolitano di fuga domestica, un tram per solitari in fuga per un'ora al giorno. Per questo ascoltatore il treno è il luogo di fuga domestica, è vero, lo condivido. Anche per me viaggiare in treno è una grande risorsa. Si può sempre fingere che cade la telefonata quando stai parlando con una persona molesta con cui non vuoi parlare. Si può millantare qualunque cosa in treno, si può dire quello che in realtà non è, e si può immaginare qualunque cosa delle persone che si hanno accanto. Francesca, buongiorno. Nicoletti, buongiorno, grazie. Finalmente la mia prima accompagnatrice in treno. Ecco, io amo viaggiare in treno, viaggiavo più nel passato che oggi, però ogni volta che attacco bottone con le persone e comincio a parlare con loro, mi piacerebbe, perché non ci riesco, inventarmi una vita che non è la mia, cioè vorrei raccontare delle bugie, per esempio. E cosa le impedisce? Le se legge addosso tutta la sua vita in maniera implacabile, quindi non può millantare nulla. Lei ha ragione, però quando è il momento di dire, no? Mi chiedono, ma lei ha figli? Per esempio io non ho figli, questo è un buco nella mia vita grosso. Vabbè, mica uno deve sentirsi un dannato se non no, no, per carità, però mi piacerebbe, allora ho persone molto care, allora mi piacerebbe inventare che sono appunto, non so, figlie mie, no? Raccontare tutto di queste persone, però non ci riesco, alla fin fine la bugia non esce, no? Anche se mi piacerebbe proprio inventarmi una vita sul treno. E raccontare esattamente quello che lei, come dicono i reality show, sii te stessa. Lei perché non può essere se stessa seduta nel comodo sedile di un treno in cui può fare quello che vuole? Io sono molto me stessa, così me stessa che mi inibisco e non dico nulla che non sia vero su di me, dico le cose vere, però mi piacerebbe dirle false. Grazie, Maria. No, Maria ha parlato. Francesca. No, Maria non ha parlato. Maria, eccomi. Buongiorno. Ecco, grande viaggiatrice. Io amo molto viaggiare in treno e per il passato ho viaggiato anche con il vagone letto. Il mio intervento è un po' buffo, nel senso che un viaggio dal nord verso la Sicilia, ho incontrato una siciliana che mi ha raccontato una storia meravigliosa, peccato che non ho preso nota, che avrei potuto scrivere un racconto, però mi ha insegnato una cosa che mi è rimasta per sempre, come farsi il bidet nel bagno del... Questo è molto interessante, ce lo spieghi, perché è una lacuna che trovo necessario e importante in una radio di servizio col mare. Come lei si fa il bidet nella toilette del treno? Questa signora siciliana mi ha detto, ha tirato fuori dalla borsetta, non so se si ricorda, quei bicchieri pieghevoli. Sì, quelli dei Boy Scout, quelli telescopici, sì. Esatto, e dice lei, guardi, l'importante è che lei abbia un bicchiere e lo riempi d'acqua. Ma io capisco, sì. Un uomo che ci intinge dentro quello che ha, ma una donna come fa? Sì, appunto, lei si mette in posizione sulla tazza del water. Con il bicchiere in mano? col bicchiere pieno d'acqua e se lo versa. Adesso non voglio entrare in particolari, perché la legge di gravità la farebbe cadere verso il basso e quando uno è accucciato verso l'alto. Comunque ha trovato questa maniera di farsi. Poi il bicchiere, una volta fatto il bidet, lo ripiega, lo mette nella borsetta, lo tiene assieme agli altri accessori da viaggio. Mi sembra una soluzione senz'altro importante, la suggeriremo. Nel mio lungo viaggio avrò modo di sentirne di belle, senz'altro. 800240024, anzi vi do anche una mail, iltrenova@radio24.it. Cominciate a prenotarvi, io avrò molto tempo, avrò molte stazioni da scendere e da salire, avrò molte ore da passare in treno. Poi, come avete sentito nella sigla, c'è sempre una donna che aspetta dove finiscono i binari. Non so se per me ci sarà una donna che mi aspetta. Ognuno di noi, ogni maschio, anche se strasposato, strafidanzato, strappagato, sogna sempre ci sia qualcuno che l'aspetta alla fine del binario. E nulla può appagare l'attesa di un viaggio di una donna che ti aspetti, che magari non conosci. Giovanni. Buongiorno, grazie per questo spazio. È d'accordo? Dunque, sì, io la mia prima fidanzata, ed era il 1987, l'ho incontrata e conosciuta sul treno da studente, e quindi sì, è vero, magari non in fondo al binario, ma direttamente sul treno insieme a te, nel sedile a fianco, perché è una compagna di viaggio, eccetera. Oppure un altro aneddoto interessante, durante il servizio militare, tornando a casa, c'era una persona nello scompartimento apparentemente così molto semplice, che con colori improbabili su una carta da pacco disegnava i volti delle persone che c'erano intorno a lei e quello che guardava dal finestrino. Quello che mi ha colpito alla stazione di Bologna, chi c'è stato sicuramente lo ricorda, ha disegnato la crepa nel muro che ricorda, sì, all'interno della sala d'attesa, c'è quel bucone grosso, si vede da dentro e da fuori perché il buco è bello grosso. E quindi lei ha attaccato bottone con la fidanzata e da allora sì, è nato. Siamo stati fidanzati, vabbè, 6 anni, ma è stato bello, un bellissimo momento, sì. E come vi siete lasciati? Sempre sul treno vi siete lasciati? No, più semplicemente poi a casa sua, una domenica la cosa è finita, perché forse era già finita, nel senso non... E l'ha detto lei, ha detto guarda che è finita, non c'è più niente da fare? No, l'ha detto lei a me. E lei è caduto dalle nuvole oppure ce me ne ero accorto? Non sono caduto dalle nuvole, ma diciamo che la sensazione era quella lì. Poi poi sceso, anche lì molti anni. E poi è sceso dal treno e la ragazza ha continuato il suo viaggio, sarà approdata a qualche altra stazione, sarà rimasta chiusa in una galleria, sarà stato qualcuno che l'aspetta o ancora gira aspettando qualcuno che l'aspetti. Melog, cronache meridiane. Allora, se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta. Questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto. Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. No, che trombone. Bravo. No, scusate. Ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, ma le volte. No, per carità. No, trombetta è padre, trombetta è figlio. A prescindere. Viceversa, mia sorella... 00240024, questa mattina vi ho anticipato quello che farò tutte le domeniche dal 2 novembre. Starò in treno dalle 11 a mezzogiorno su Radio 24 a seguire Il treno che va. Il treno va è la nuova trasmissione che farà parte della nuova offerta di palinsesto del weekend di Radio 24. E siccome è una trasmissione che dovrò improvvisare, la sto pensando adesso in questo momento, mi servono storie da raccontare in treno, non necessariamente legate alla vita in treno, ma anche storie che vengono fuori proprio perché aiutate, corroborate, facilitate dal fatto che il treno, con il suo moto incessante, con questo dondolio, con questo rumore che è sempre lo stesso, provoca una sorta di trance, sennò la gente non si lascerebbe andare tanto al telefono. Antonino, buongiorno, da Padova. Buongiorno Nicoletti. Allora le do io una buona idea. Vede, io faccio il ginecologo di mestiere e quando viaggio in treno, e lo faccio spesso perché ho dei nipoti, e li vado a trovare, allora naturalmente non dico mai che sono un ginecologo, specialmente se ci sono delle donne, perché mi toccherebbe fare visite gratuite. E visitarle lì come? Sul vagone del treno, com'è possibile? Cioè, i sedili più di tanto non vanno giù, non è possibile simulare... Ma fanno domande, capisci? Ah, io domande. Ma è possibile? Davanti a tutti, dottore, guardi una candida, mi prude un po', queste cose qua non è possibile. Senza alcun pudore. Senza alcun qualcuno pudore. Qualcuno si spoglierebbe anche, ma... Beh, che le donne siano spudorate, mettiamo... trovo che sia un grande momento di euforia e di felicità per me, quindi questo darebbe soltanto allegria allo scompartimento. Quindi lei cosa millanta di essere? Io ogni volta mi invento un personaggio, perché voglio vedere, mi diverto a vedere l'effetto che fa. Le faccio alcuni esempi. Una volta dico che sono un magistrato e la gente s'attace, non si pronuncia più, hanno paura. Peggio ancora se dico di essere un poliziotto. Qualche volta ho detto addirittura di essere appena uscito di galera, un'altra volta che sono appena uscito da un istituto psichiatrico. E io vedo la reazione della gente, mi diverte moltissimo. Guardi Antonio, lei mi ha dato una grande idea. A me divertirebbe moltissimo dire che sono un ginecologo. Vorrei vedere l'effetto che fa. Se lei è così sicuro che ci sarebbe una richiesta continua di consulenze, potrei sbizzarrirmi come voglio a raccontare l'inarrabile, lo sconosciuto, l'indimenticabile, per quanto è stato possibile, dell'universo sconosciuto più nascosto delle donne. Grazie, Raul da Monza. Ciao. Sì, buongiorno Fesoletti. Sì. Fa un grande piacere parlare con lei. Si diverte quindi... andare in treno? No, io da mo' che non vado in treno. Perché? Perché stiamo, allora io ho fatto proprio, sono venuto a vivere a Milano perché facevo pendolare da Novi Ligure a Milano, quindi erano due ore e mezza di viaggio in treno. Quindi lei faccia parte di questa 21ª regione dei pendolari, tutti i giorni si muove, una regione senza confini. Sì. E cosa le è accaduto in treno? Fortuna. Cosa le è accaduto? In questo viaggio... si conoscevano tante persone, tante donne, e io mi sono avvicinato a una donna, chiaramente anche perché con... i treni pendolari si sta in piedi, è promiscuo, uno appiccicato all'altro, ci sono mille occasioni. Io viaggiavo in prima, quindi mi permettevo una situazione un po' più comoda. E cosa fa? Quindi nel avvicinarmi a questa donna, il solito approccio, chiaramente con le intenzioni solite. Lei ha proprio superato me, nel senso che a un certo punto, parlando di relazioni e tutto quanto, lei mi stava proponendo di lasciarla incinta, se potevo io lasciarla incinta, perché il marito non ne aveva problemi, ma non ce la faceva. Una sorta di eterologa inquattata nella toilette del treno. Una propria eterologa proprio. E lei che ha fatto allora? Ha provato? Niente, no, mi sono proprio non allontanato, però insomma gli ho dedicato solo un saluto. Non disperde il suo seme inutilmente. Bene, Lorenzo da Torino, anche donne vorrei, perché se alla fine del viaggio mi aspetto una donna, sarebbe carino parlare con donne durante il viaggio, magari proprio quella che mi aspetta mi sta accanto, non che faccia il provolone o il compulsivo. La donna è un elemento dell'immaginario, è il punto di vista che noi non abbiamo, per questo cerco una donna nel mio viaggio, non perché voglia fare quello che stanno dicendo i nostri ascoltatori, figuriamoci, non ho più l'età e non ho più nemmeno le capacità di poterlo fare, no, perché è interessante il punto di vista di una donna, quello degli uomini ormai lo conosco da troppi anni. Lorenzo. Salve Nicoletti. Eccomi. Complimenti per la trasmissione. Le volevo dire, sentendo la sua, diciamo, il nuovo servizio che farà dal 2 di novembre, no? Mi viene in mente un remake di Nanni Loi, si ricorda negli anni 70? Sì, lui fece il suo specchio segreto, una volta lo fece anche in un treno, c'era una candid camera nascosta e lui attaccava discorso con, poi non si sa quanto fosse candid perché in realtà molte volte erano cose con un lieve grado di preparazione, con i viaggiatori del treno che venivano ripresi da questa telecamera nascosta, loro non vedevano. Sì, faceva parte della miglior televisione del... sì è vero, esatto. sì allora poi c'era soltanto il treno, oggi è una scelta di qualità andare in treno, perché in treno va in treno chi ama viaggiare in una certa maniera, ancora i frenetici e fremebondi prendono l'aereo, anche Roma-Milano prendono l'aereo perché gli sembra una diminuzio prendere il treno, quando in treno invece è una grande occasione di vita. Anna da Milano. Gilda Nicoletti, io l'ascolto sempre e la stimo molto per la sua umanità. Io adoro Gilda. Vabbè, per la mia bestialità non è stimabile. No, no, umanità. Sì. Ascolti, è tutta da provare. Adoro viaggiare in treno e soprattutto quando sono in treno mi piace moltissimo osservare le persone e ascoltare la loro vita. Ho scoperto che la gente è facile ad aprirsi, forse il treno, il ci vado per questo, infatti. Forse una persona estranea. Io ho raccolto le più stranissime è quello, guardi, lei ha messo il dito esattamente nel punto del problema. È quello che mi auguro di fare io, se no l'avrei fatto in bicicletta, in motocicletta, in automobile. Il viaggio che farò e sarò assistito da Fabrizio Intonti, che mi seguirà come un'ombra, sarà fatto proprio con questo fine, di permettere di strappare, di estirpare quell'attimo di cedimento che ogni persona ha quando viaggia in treno. Alla prossima.